Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Preoccupazione nel mondo dell'agricoltura regionale per i tagli previsti alla politica agricola comune. Ad essere più colpite sarebbero le piccole aziende familiari. Lavoro in corso in Consiglio regionale, domani in discussione a oltranza e voto sulla manovra estiva da quasi 1.200.000.000. A Porto Nogaro, navi a mezzo carico per poter transitare nel canale, programmati i dragaggi, oggi una riunione tecnica in regione. Finanziamenti tardivi e frazionati per il contestato progetto della cabinovia di Trieste, a riferirlo la lista di opposizione Punto Franco. Oltre il muro di un carcere a Udine, inclusione e responsabilità sociale nel progetto Lega Coop Sociali FVG ed Insieme Man per via Spalato. Al Mittelfest di Cividale la prima di Teatri di Guerra, viaggio tra i palcoscenici ucraini. A Gorizia il premio Amidei per la sceneggiatura. 12:31, buongiorno da Dario Ronzoni e Rita Micoli. In apertura di questo giornale parliamo di agricoltura e dei tagli del nuovo bilancio europeo annunciati che mettono a rischio il futuro del settore primario. Le reazioni del mondo dell'agricoltura del Friuli Venezia Giulia con Antonio Di Bartolomeo che è in diretta con noi. Sì Rita, c'è preoccupazione nel mondo dell'agricoltura per i tagli previsti dalla politica agricola comune, dalla proposta di bilancio dell'Unione Europea formulata la settimana scorsa dalla Commissione per il periodo 2028-2034. La riduzione sarebbe pari circa al 20%, ma diventa più sostanziosa se si considera l'effetto dell'inflazione. La riforma coinvolge le oltre 11.000 imprese agricole del Friuli Venezia Giulia, ma alcune sarebbero più danneggiate di altre. Secondo Coldiretti, le sovvenzioni della PAC sono vitali, in particolare per quelle aziende familiari delle aree interne, attività che rappresentano uno strumento di tutela dei territori a rischio di spopolamento e abbandono. Confagricoltura punta inoltre il dito contro l'eccessiva burocratizzazione unita all'incertezza normativa che si è già registrata nei primi anni dell'attuale politica agricola comune. Anche la CIA si esprime duramente contro questi tagli e invita a rivedere il sistema per favorire una migliore distribuzione dei ricavi lungo tutta la filiera. I prezzi delle derrate rimangono troppo bassi, denunciano, a fronte di aumenti che invece hanno pesato sui consumatori. Ora, quella che si è svolta la settimana scorsa a Bruxelles, che è stata comunicata dalla Commissione la settimana scorsa, è solo la prima parte, la primissima parte di un lungo percorso che durerà un paio di anni e che coinvolgerà con negoziati gli Stati membri e anche il Parlamento europeo. Dunque la speranza del mondo agricolo è che si riveda in meglio dal loro punto di vista il bilancio europeo. E da parte mia è tutto, la linea può tornare a te, Rita. Il secondo giorno di discussione in aula del Consiglio regionale per la manovra di assestamento finanziario dell'estate. 1.191.000.000 di euro allocati finora. I lavori proseguiranno anche domani e si protrarranno a oltranza sino che non ci sarà l'ultima approvazione. Non è ancora iniziata, dopo una sospensione di oltre 2 ore per un vertice di maggioranza, la discussione in Consiglio regionale sulla manovra estiva e l'assestamento 2025-2027, una manovra che vale quasi 1.200.000.000, il 2% quindi del PIL regionale, che tra le altre cose interviene su welfare, natalità, sanità e turismo, con 65 milioni ulteriori destinati a promoturismo FVG. Prevista oggi la discussione anche sull'emendamento Jolly, che destinerà fondi ai comuni. Nel corso delle riunioni di maggioranza si è discusso degli emendamenti singoli per destinare i fondi stanziati ancora non assegnati. Tra il pomeriggio di oggi e soprattutto durante la giornata e la serata di domani sono previste le votazioni, che si concluderanno quindi nella notte tra giovedì e venerdì. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. 12:34:40 in questo momento, uno sguardo alla situazione meteo. Il cielo è sereno su pianura e costa, da nuvoloso a variabile in montagna. Le temperature registrate alle 11. A Trieste 30 gradi, mare quasi calmo con una temperatura di 27 gradi. Anche a Gorizia 30 gradi, a Udine e Pordenone 28 gradi. A Tolmezzo Mezzo 25 gradi, a Tarvisio 22 gradi, a Forni di Sopra 21, a Sappada e sul Piancavallo 19 gradi. Sul Monte Zoncolan 14 gradi, sul Monte Lussari 12, sulla costa a Grado 30 gradi, temperatura del mare di 26 gradi e mezzo, a Lignano 28 gradi, temperatura del mare 27 gradi. E queste sono le previsioni dell'ARPA regionale. Oggi pomeriggio cielo in prevalenza poco nuvoloso, probabilmente variabile sulla zona montana. Saranno possibili dei rovesci e qualche temporale. Sulla costa soffieranno venti a regime di brezza. Domani giornata con tempo instabile, nuvolosità variabile con rovesci e temporali sparsi a più riprese nel corso della giornata, più probabili sull'alta pianura e sulla zona montana. Maggiore presenza di sole invece sulla costa, con possibile vento moderato da sud-ovest, ma in giornata probabilmente prevarrà la brezza. Le continue mareggiate hanno innalzato i fondali del canale di Porto Nogaro, dove le navi sono costrette ora a caricare metà delle merci. A breve partiranno i dragaggi per ripristinare la viabilità marittima dei mezzi, ma le imprese fremono perché non si riesce a lavorare. Questa mattina una riunione tecnica in regione. Navi costrette a scaricare solo mezzo carico e una nave addirittura è stata dirottata su Chioggia per completare il carico. I fondali di Porto Nogaro, unico porto marittimo d'Italia collocato all'interno di un fiume che dista 7,5 miglia dal mare, sono troppo bassi per transitare e mettono a rischio le operazioni di uno scalo che dà lavoro a 450 persone e oltre 50 aziende del territorio. Il dragaggio per il ripristino della quota a 7,5 metri è oramai imminente. A metà agosto partirà e stamane all'assessorato alla ambiente. Tecnici della regione, Confindustria e Capitaneria di Porto si sono riuniti attorno ad un tavolo per fare il punto e soprattutto ragionare attorno alla necessità di fare dragaggi ordinari. Luigino Pozzo, presidente Confindustria. I fondali salgono circa di mezzo metro all'anno. Bisogna cominciare a ragionare su delle manutenzioni ordinarie. Ogni quante volte in un anno andrebbe fatta? Quante volte all'anno, questo dipende dalle mareggiate, ma si prevedono almeno due volte all'anno, ecco, perché le mareggiate ci sono in autunno e in primavera. L'ultimo dragaggio fu fatto nel novembre del 2023. La regione riuscì ad accedere all'area nel 22, un anno prima del dissequestro, per far partire gli iter ambientali molto complessi sui quali gravavano diversi avvisi di garanzia, conclusi tutti con l'assoluzione, fa sapere l'assessore regionale Scoccimarro, seccato per le parole uscite sui giornali di Sandro Midolini, a capo di una delle aziende più importanti del porto, che lamenta ritardi negli interventi. La burocrazia, spiega Scoccimarro, frena i processi, nonostante la regione negli anni abbia investito 14 milioni di euro nel sito. I dirigenti in passato hanno fatto di tutto e di più, difatti sono presi anche avvisi di garanzia perché hanno fatto troppo velocemente determinate operazioni. Abbiamo delle norme che discendono dall'Europa dove lo spostamento delle sabbie dei fondali ha un iter molto complicato. Noi cercheremo a livello ministeriale ed europeo di semplificarlo, ma tant'è. I soldi la regione li ha messi, li metterà e continuerà sempre e comunque a lavorare come oggi al fianco delle imprese per risolvere il problema. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. In ritardo e a rate, il finanziamento della cabinovia di Trieste non arriverà prima del 2027. A scoprirlo la lista di opposizione in Consiglio Comunale Punto Franco, che ha visionato le carte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Intanto sul finanziamento pende anche un ricorso davanti al TAR del Lazio. I 48 milioni di euro di fondi ministeriali per la realizzazione della cabinovia metropolitana di Trieste tra il Molo Quarto e l'abitato di Opicina, via Bovedo, ci sono, ma arriveranno in 8 rate e non prima del 2027 fino all'anno 2034. Un finanziamento, insomma, in ritardo e rateizzato, come l'acquisto di un materasso attacca alla lista Russo Punto Franco, che grazie all'aiuto del Comitato Nuovo Via ha potuto visionare le carte del decreto con cui il Ministero ha stabilito il finanziamento dell'opera con fondi propri anziché con fondi legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come era stato inizialmente stabilito. Tra l'altro, su questa decisione, cioè sul cambiamento della tipologia di finanziamento della cabinovia metropolitana, pende un ricorso davanti al TAR del Lazio, presentato proprio dai comitati civici che si oppongono all'infrastruttura. Il sesto, dopo i 5 accolti nei giorni scorsi dal TAR del Friuli Venezia Giulia sulla variante al piano regolatore cittadino. I 48 milioni che arriveranno in ritardo sono un motivo in più per fermare la realizzazione dell'opera, ha detto stamani il consigliere di minoranza Paolo Altin, lista Russo Punto Franco, accusando la giunta di mancanza di trasparenza nei confronti della cittadinanza. Fino al 2027 saranno dunque le casse comunali a dover farsi carico delle spese legate alla costruzione della cabinovia, si chiede. Il comune, da noi interpellato, non ha per il momento ancora inteso replicare. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Voucher digitali e transizione energetica. La Camera di Commercio Pordenone Udine li mette a disposizione delle piccole e medie imprese dei due territori con un bando dal plafond di 250.000 euro. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dall'impresa, fatturate e pagate a partire dal 1 gennaio e prima della presentazione della domanda per acquisire servizi e beni per la adozione e introduzione in azienda di tecnologie digitali 4.0 in un'ottica di doppia transizione digitale ed ecologica o ancora per acquisti finalizzati a favorire la razionalizzazione dell'uso di energia da parte delle imprese attraverso la realizzazione di interventi di efficientamento. L'agevolazione camerale consiste in un contributo a fondo perduto in conto capitale sulle spese sostenute e ritenute ammissibili nella percentuale massima del 70%. Le tipologie di voucher sono due. Il voucher A è dell'importo di 5.000 euro per una spesa minima di circa 7.140 euro. Il voucher B è di 10.000 euro su una spesa minima di 14.285. Le domande vanno inviate entro il 2 settembre. Presentato oggi a Udine da Legacoop Sociali FVG il nuovo progetto della cooperativa di Insi Uneman che ha contribuito all'allestimento della nuova sala polivalente realizzata nel carcere di Via Spalato a Udine, un cantiere avviato nelle scorse settimane che parte di un più ampio progetto di ristrutturazione dell'istituto penitenziario del capoluogo friulano. Un passo al di là del muro di un carcere, una sala polifunzionale che sarà un teatro aperto alla città, oltre che aula, studio e laboratorio all'interno del carcere di Via Spalato a Udine. Un progetto che mette insieme inclusione e responsabilità collettiva, perché è realizzato grazie alla donazione della cooperativa di Insi Uneman. Una nuova visione della vita all'interno del carcere, sottolineata da Legacoop Sociali Friuli Venezia Giulia, che ha voluto mettere in evidenza ancora una volta il problema del sovraffollamento delle carceri in Italia. 62.445 detenuti su una capacità prevista di 51.280, 133% di persone in più. Numeri che si rispecchiano a Udine, dove al 20 luglio erano presenti 183 detenuti su 95 di capienza possibile. Il progetto del nuovo carcere di Udine va nella direzione di una cella che non sia al centro della detenzione, con un'analisi realizzata dall'Università di Udine che ha rivelato oltre 8.000 metri quadri inutilizzati. Non va invece nella direzione giusta, secondo Andrea Sandra, garante dei diritti delle persone private della libertà del comune di Udine, la riforma della giustizia con il piano Sfolla Carceri. Critico Sandra con il piano di ampliamento delle strutture e con il disegno di legge sulla detenzione domiciliare cosiddetta differenziata per i detenuti tossicodipendenti. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. 13 tandem e 2 biciclette per il trasporto di persone in carrozzina sono i 15 veicoli per la mobilità inclusiva che la GIT di Grado mette quest'anno a disposizione degli ospiti con disabilità. I veicoli sono stati acquistati con fondi del Ministero per le Disabilità e un cofinanziamento regionale. Il parco mezzi di GIT comprende 13 tandem, di cui 3 elettrici e 2 doppi con i sedili appaiati, oltre che 2 biciclette attrezzate per il trasporto di persone in carrozzina. Gli ospiti con disabilità possono disporne gratuitamente e senza limiti di tempo durante il loro soggiorno, presentando un documento d'identità e il certificato di invalidità. Un investimento da 1.300.000 euro, ha ricordato il presidente GIT Roberto Marine, di cui 1.200.000 provenienti da fondi statali e 120.000 euro cofinanziati dalla Regione. L'obiettivo principale è abbattere le barriere architettoniche e fisiche delle persone con disabilità. Con il progetto Amare in mare, GIT ha inoltre incrementato e migliorato la rete di servizi accessibili, che vanno dalle cabine spogliatoio attrezzate alle passerelle removibili dai lettini rialzati alle sedie da mare job, che permettono anche l'ingresso in acqua alle persone in carrozzina. E viene presentato oggi il progetto CARE, percorso teatrale ed espressivo per caregiver, che intende dare voce e spazio a chi ogni giorno deve prendersi cura di un proprio caro non autosufficiente o con una patologia cronica. Comprenderà laboratori teatrali ed espressivi, letture sceniche e tavole rotonde. L'inizio alle 18.30 alle Serre a Basaldella di Campoformido. Noi ne abbiamo parlato con Klaus Martini, che ha ideato il progetto, per sapere in che modo il teatro può aiutare i caregiver. Il teatro è un linguaggio espressivo in più a disposizione, in questo caso del caregiver. Il linguaggio del teatro è un linguaggio anche che spesso non è verbale. Spesso il caregiver si ritrova a dover affiancare e curare una persona fragile o con una malattia patologica, dove il mezzo del linguaggio, diciamo, verbale è quello meno in qualche modo comprensibile per il malato, no? Ecco, il teatro riesce a lavorare anche in una dimensione che è più corporea, questo in relazione, se vogliamo, anche al malato, ma soprattutto nella mia idea c'è quella di poter in qualche modo creare un ambiente, un luogo dove il teatro riesce a dare uno spazio di sostegno al caregiver, che di solito è abituato a donare cura in una condizione non decisa da sé, che è capitata, mentre in una condizione laboratoriale del teatro questa cura invece può essere, se vogliamo, data dal teatro e dal gruppo soprattutto, perché poi il teatro è anche un incontro sociale ed ecco quindi che c'è anche un elemento di collettività sociale che può aiutare molto il caregiver, che si ritrova in più occasioni purtroppo isolato nella condizione di disagio. Questi sono solo due degli aspetti. Oltre al teatro, poi nei laboratori ci saranno anche dei momenti che saranno specifici, dedicati alla respirazione, che verranno fatti con una cantante e musicista che si chiama Laura Giavon, e poi ci sarà anche un modulo dedicato più al corpo, che verrà condotto da Nicoletta Oscura e Ugo Samek, che sono rispettivamente, lei è Nicoletta attrice, regista e esperta di tango, così come anche Ugo esperto di tango e anche regista e scrittore di teatro, quindi hanno sia un elemento teatrale che un elemento di danza corporeo, che potranno essere messi insieme per dare un linguaggio in più ai caregiver, che è anche fisico. Gli spettacoli con il programma serale del Mittelfest di Cividale del Friuli alle 21.30 nella chiesa di San Francesco andrà in scena in prima assoluta Teatri di Guerra. Uno spettacolo del regista e autore Enrico Baraldi e del giornalista Graziano Graziani con l'attrice ucraina Ieva Sai, molto noto al grande pubblico per il suo ruolo nella serie Rai Mare Fuori. Nato dal podcast omonimo, questo spettacolo inchiesta ripercorre l'esperienza diretta dei due autori nei teatri attivi in Ucraina durante la guerra. Attraverso testimonianze raccolte sul campo e una narrazione a due voci si indaga il ruolo del teatro in un contesto di emergenza, non solo spazio culturale, ma rifugio, simbolo, resistenza civile, un debutto che tocca da vicino l'attualità europea e la potenza della scena. Prima alle 18 l'Orto delle Orsoline si anima con la musica dei Gugut, che alla prima nazionale di Trieste-Istanbul andata e ritorno, un itinerario sonoro tra i Balcani che intreccia strumenti antichi e ritmi popolari. Alle 19.30 il Teatro Ristori ospita la prima nazionale di Loop, nuova creazione della compagnia praghese Losers Cirque Company, un'esperienza acrobatica, poetica e fisica che esplora i cicli della vita, della storia e delle relazioni. Alle 20.30 nel cortile di Firmine per la rassegna Mitte l'immagine va in scena Si Vif, una vite di musicante, film documentario di Dorino Mingutti dedicato al cantautore friulano Gigi Maglieron, un racconto personale profondo fatto di affetti, dolori e parole che diventano musica e cura. E si conclude a Gorizia il premio internazionale Amidei alla miglior sceneggiatura con la proclamazione dei vincitori. L'incontro sarà nella sala 2 del Kinemax alle 19.30 e la consegna ufficiale alle 21.15 al Parco Coronini-Kronberg. 7 i film in concorso, nazionali e internazionali, tra i finalisti anche Gabriele Salvatore, sull'ultimo appuntamento anche per la sezione speciale Neuropatie e il cinema, e la cura dei traumi del corpo europeo, film che raccontano le contraddizioni dell'Europa contemporanea. Alle 18 in sala 2 la conversazione con gli autori Andrea Segre, Mimmo Calopresti, con Eleonora De Maio e Stoyan Pelko. Avele Maninico Droipo va in scena questa sera la cantante Alessandra Amoroso, che fa tappa in Friuli Venezia Giulia per la sua tournée estiva. L'appuntamento comincia alle 19 con l'apertura delle porte al pubblico. Lo scorso 13 giugno è uscito il suo nuovo album Io non sarei, che mostra le influenze diverse dalla musica latina al pop, passando per il soul della musicista che state ascoltando in sottofondo. In dolce attesa, Alessandra Amoroso ha dovuto cancellare le tre ultime tappe del suo tour, quella a Roccella Ionica, Macerata e a Napoli. Ma io non lo so fare, imparo piano piano un po' come a suonare. C'è una città. Alla capannina di Lignano Sabbiadoro, in lungomare Trieste, incontro sul libro Silenzio assoluto di Goran Milashinovic all'interno della seconda rassegna Parole d'acqua e di sabbia, che proseguirà ogni mercoledì. Libro, un romanzo basato sul massacro nel 2002 di 10.000 uccellini rari a Bačko Podunavlje, per soddisfare le bizzarre passioni edonistiche e la golosità di ricchi eccentrici. Nella galleria Kleine Berlin di Trieste, per la rassegna Atmosfera letteraria, Paolo Picchieri presenta il suo romanzo La chiave di Via Rastello, modera Cristiano Degano, letture dell'attrice Patrizia da Rossa, alle 20.30 in via Fabio Severo di fronte al Civico 11. Ed è in arrivo a Pordenone il Festival Internazionale di Cortometraggio a cura di Cinema Zero. Si comincia da domani e fino a sabato, ma già oggi ci sono gli incontri introduttivi alle 14.30 nella Sala Blu della Mediateca di Cinema Zero, una proiezione per gli studenti accreditati del Festival, con 5 corti che saranno poi proiettati in loop dalle 16 alle 19 a tutto il pubblico. Alle 17.30 in un laboratorio all'Arena Wow si spiegherà la cianotipia ai bambini dai 6 ai 13 anni, mentre alla stessa ora in Mediateca la regista e giurata Giulia Martinelli terrà la masterclass intitolata Confidare nel caso, come ho costruito una carriera creativa inseguendo il caso, l'imbarazzo e i bus sbagliati. Poi DJ set all'Arena Wow di The Sbebers alle 19.30, si chiude alle 21 con una proiezione dedicata all'animazione. E ora passiamo allo sport con il ciclismo. Al Tour de France Milan è rimasto in maglia verde dopo la 16ª tappa di ieri. Il velocista di Buia, leader della classifica a punti, oggi si metterà alla prova sui 160 km da Bollène a Valence. La corsa parte alle 13.50, una frazione non completamente pianeggiante ma considerata adatta per i velocisti come Milan, che potrebbe tentare lo sprint. Con lui cercheranno la volata anche Tim Merlier, Wout van Aert, Caden Groves, Benjamin Girmay e il Bauhaus. Ed era l'ultima notizia di questa edizione del giornale radio regionale, in regia Mauro Ciccarelli e Marco Ferritto. In redazione ha collaborato Laura Sarasini. L'informazione radiofonica su queste frequenze alle 15, mentre vi ricordiamo il telegiornale della TGR del Friuli Venezia Giulia alle 14 sul terzo canale televisivo. E da Dario Ronzoni e Rita Micoli grazie per l'ascolto e l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.